Broadcast Italia. La storia e le voci delle radio quando erano libere. Broadcast Italia presenta Edit. Benvenuti a Edit, bentrovati, come state, infreddoliti? Io abbastanza. È una serata in cui nella città dalla quale stiamo trasmettendo fa un grado. Non so in giro per l'Italia che cosa succede. Noi sappiamo invece che succedono molte cose, cioè sono tantissimi musicisti che ci contattano su MySpace broadcastitalia.it oppure MySpace/broadcastitalia. Lì troverete i nostri filmati, alcuni appunti in telecamera per vedere un po' chi c'è, e ho scoperto che ci sono un sacco di gente, di persone nome che non ho mai visto in studio, e qualche volta saluterò anche attraverso il nostro Skype, perché attraverso Skype potete anche mandarci dei messaggi durante la trasmissione. Noi siamo in diretta il sabato quasi sempre, questa sera senz'altro, e dico sera perché poi magari in questo momento è la mattina che ci state ascoltando, o la notte, o chissà dove, o chissà quando. Bene, noi siamo Broadcast Italia, io sono Edit, o meglio Enrico Di Troia, vi ringrazio per essere di nuovo qui questa sera. Potete vedere la mia faccia sul myspace.com/anditendit, non anditendit, ma anditendit, proprio e normale come quella di Enrico. E noi siamo qua questa sera con una grande sorpresa, perché l'altra volta io ho detto vorrei sentire ogni tanto qualche gruppo diverso, qualcuno che facesse una musica un po' diversa da quella solita rock giovanile, e vorrei sentire, che ne so, musica classica per esempio o jazz. E pare che questo appello sia stato raccolto, perché questa sera abbiamo degli amici molto interessanti. Intanto voi andateli a guardare il loro sito mentre siete in onda con noi, smettete di guardare i soliti siti porno, arrollatevi una canna e state un po' con noi tranquilli. Allora, si chiamano Berardi Jazz Connection. Una canna no? Non si può? Vabbè ragazzi, fate quello che volete, mettetevi tranquilli. Berardi Jazz Connection sembra un po' il nome di un piano bar, no? Un bar all'aperto come si usava una volta. Berardi Jazz Connection. Berardi Jazz Connection fanno un sacco di belle cose e noi le sentiremo più o meno tutti. Abbiamo, diciamo, 7-8 brani da ascoltare di questo gruppo, e intanto siamo anche in collegamento con loro. Non sono qui con noi in studio, ma sono a Taranto, in Puglia, la mia amata Puglia, perché io sono d'origine pugliese. E sarà con noi Francesco Lomagistro, intanto che noi prepariamo le cose, un attimo di jazz e tra poco lo chiameremo al telefono. Lo so, è molto freddo, io ho bisogno di scaldarmi, e una delle poche cose che mi scaldano veramente è ascoltare il contrabbasso di Gary Peacock, la batteria di Jack DeJohnette e il pianoforte di Keith Jarrett. Lo so, forse vi sta antipatico perché ogni tanto quando suona vi dice smettetela di fotografarmi, ascoltate la musica per favore, no? Io sono d'accordo con lui, mi dispiace, pensate quello che volete, io sono d'accordissimo con lui. Alla fine di un concerto di tanti anni fa che fece al Campidoglio a Roma, che io registrai, questo è meglio non dirglielo, con un microfono ficcato in una gamba, Lui disse, dopo un bis, la gente voleva ancora sentirlo suonare, lui disse: la musica è fragile, un po' come lo stomaco, music is fragile, e se mangiate troppo vi sentite male, quindi accontentatevi di quello che vi ho dato, che non è poco. Sempre loro in tre danno tantissimo sul palcoscenico. Keith Jarrett, Gary Pico, Jack DeJohnette, ma anche il gruppo che avremo questa sera, che si chiama Berardi Jazz Connection, credetemi, vi scalderà. Noi siamo Broadcast Italia, welcome, benvenuti, welcome to Broadcast Italia, web radio, all from Italy, from Rome, editor and microphone with you. Come me la cavo? Meglio con l'inglese, sto imparando. Salutiamo David, che è il nostro Deus Ex Machina. Salutiamo Luciano, che è la console con noi questa sera. E salutiamo anche mia moglie, che mi permette di fare questo programma, perché altrimenti chi ci starebbe con i bambini? Thank you very much, Gary Peacock on bass. Sentite che pubblico ordinato. Chissà perché registrano sempre in Giappone, in America o a Parigi. Forse perché da noi arrivano ancora le lattine sul palcoscenico quando si suona? Oppure perché continuate sempre a fare fotografie durante i concerti o chiacchierate. Bisogna stare concentrati. Questa è musica che va ascoltata così, a occhi chiusi magari. O a guardare Jack DeJohnette che fa queste storie sulla batteria. We'll be right back. Questa è Edith e questa è Broadcast Italia e noi abbiamo Berardi Jazz Connection ospiti con noi questa sera. C'è Francesco Lo Magistro al telefono con noi, sentiamo se è lì. Francesco, ci sei? Sono qui, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Grazie. Mi stavo deliziando con questo ascolto che hai selezionato, fantastico. Sapevo che ti sarebbe piaciuto. Sì, ero molto attento. Tu che cosa fai nel gruppo di Berardi Jazz Connection? Cosa suoni? Oltre a essere il leader, sono il batterista. Ah, quindi hai apprezzato ancora certo. Di più. Certo. Chi sono i componenti del gruppo di Berardi Jazz Connection? I componenti del gruppo sono, abbiamo Ettore Caruccia a pianoforte, che è il mio co-leader. Dopodiché abbiamo al contrabbasso Aldo Vigorito da Salerno, Andrea Sabatino alla tromba e Vincenzo Pressa al sax tenore. Dopodiché abbiamo una serie di special guest di validissimi musicisti come Max Ionata al sax tenore, Alberto Parmigiani alla chitarra, Cesare Passani alle percussioni e dopodiché abbiamo due splendidi cantanti che sono Paola Arnesano e Wendy Lewis direttamente da Chicago. Oh, io ho infatti ho sentito prima un brano che si chiamava, che c'è un nome, credo che sia brasiliano, o Prazer de Ser. Sì, Prazer de Ser, che è proprio di Paola Arnesano, che è uno stile molto adeguato, diciamo, alla sua voce, al suo timbro e al suo modo di interpretare, diciamo, la musica, appunto, il Brasile. E quindi ci ha deliziato di questa sua composizione che noi abbiamo eseguito in questo nostro secondo album. La vogliamo ascoltare? Certo. Ti farebbe piacere? Ti va bene iniziare con questo brano? Certamente. Bene, allora noi siamo Broadcast Italia, Berardi Jazz Connection è il gruppo che ospite con noi. Tutti i nomi dei componenti, più o meno, ogni tanto ce li ridirai, Francesco, perché non ho fatto in tempo a scriverli. Chi suona in questo brano, praticamente? In questo brano suoniamo praticamente nel trio, cioè io alla batteria, Ettore Carucci al piano, Aldo Vigorito al contrabbasso, Cesare Passanella alle percussioni e Paola Arnesano alla voce. Benissimo, allora ascoltiamo Berardi Jazz Connection, ospiti con noi questa sera, O Prazer de Ser, è giusto? Yes. O Prazer de Ser, Berardi Jazz Connection da Broadcast Italia, edit. Casa aberta ao dia, no corpo de uma vida assim, nesta aqui, sou pleno e com prazer sou de ser. Thank you. sou tão triste no meu coração. E é pluma de ver traidor, não tem fim. E o mar sem novo e sem o azul. Eu já vejo mal, pranto e lágrimas nos olhos teus. A pele sem a paz. Meu amor, veneno é pra mim, tu não vês. Eu sou uma mulher comigo sem você, um momento sem ninguém. Sonho que vai e que vem, tem que me dizer. Mas meu sorriso vive numa casa aberta. No corpo de uma vida assim, esta aqui, sou poema e com prazer, sou de ser. Berardi, Jazz Connection, bellissimo Francesco questo brano, molto molto molto elegante. O plaisir de ser, chi è la cantante? Paola Arlesano. Noi siamo Paola, quindi italiana? Italiana, però ha un'ottima pronuncia portoghese. Ottimo. Come potuto notare. Bravissima, bravissima, veramente sì, eccezionale, complimenti. Sì, ben grazie. Suonato, mi piacete moltissimo. Il batterista è con noi al telefono del Berardi Jazz Connection, questa è Edit, Broadcast Italia. Francesco, raccontaci un po' com'è nato questo gruppo? Sì, volentieri. Se ti va. Come no? Diciamo che questa idea di formare questo gruppo è nata da me perché io ed Ettore siamo amici da molto tempo e diciamo che abbiamo iniziato insieme a suonare questa musica per la quale noi abbiamo una grande passione, che è appunto il jazz e i suoi derivati, tra l'altro, perché molti anni fa, ti parlo del circa 1993, noi ci riunivamo spesso in una mia sala prove dove io studiavo, insomma, facevo le mie cose. Mm-hmm. E avevo la batteria, e che era proprio in via Berardi, e avevamo un gruppo e suonavamo appunto a parte i primi standard. Dopodiché decidemmo di focalizzarci su un periodo più, diciamo, più vicino agli anni 60 nel jazz, con autori tipo Lou Donaldson. Mm-hmm. Oppure, che ne so, i Jazz Messengers, tutto quel periodo un po' che ha rappresentato benissimo la nota etichetta Blue Note. Blue Note, yeah. E dopo tanti anni, sai, una vita, poi uno si separa, fa diverse esperienze musicali, un percorso parallelo, e un giorno decisi, ma perché non ci mettiamo e rimettiamo su quell'idea di fare un disco con, diciamo, un po' un repertorio che suonavamo già, e poi magari cominciamo a fare un po' di composizioni nostre. E così è stato. Alla fine è nato tutto con una compilation che ha appunto preso un nostro brano, e dopodiché Claudio Donato, che è il nostro produttore, ci ha proposto di fare appunto il primo disco di una serie, mi auguro. Ed è appunto nel 2006, se non sbaglio, è uscito il primo disco, che è The Way I Like. E quest'anno, insomma, inauguriamo, cioè, oddio, questa fine d'anno ci portiamo via il 2007 con il nuovo disco, che è Do It. E niente, nel nostro percorso, appunto, in questi due dischi abbiamo coinvolto un ensemble di musicisti che nella maggior parte pugliese, e siamo felici di questo perché da noi c'è un fermento positivo nei confronti di questo genere musicale, e ci sono musicisti molto capaci, e noi cerchiamo di fare, diciamo, del nostro meglio per poter uscire alla fine ed essere presenti non solo in Puglia o in Italia, ma anche all'estero. E devo dire che il primo disco ci ha portato molte soddisfazioni, soprattutto all'estero, devo dire. E dove avete suonato perché, all'estero? Guarda, più che suonato, abbiamo abbiamo avuto dei consensi positivi da una radio, soprattutto newyorkese. Mm-hmm. Che ci ha programmato per ben 6 mesi, che è praticamente bello. Una radio che si chiama CD101.9 Smooth Jazz. Infatti, quando siamo stati ad aprile siamo stati per un piccolo tour a New York, e mi hanno detto appunto che questa radio è una delle più importanti, delle più ascoltate, e sai, la soddisfazione poi dalla Puglia alla fine è arrivare direttamente nella Mecca, perché per noi New York è la Mecca, non per manie, sai, di americanismi, ma perché alla fine, per chi ama questa musica, lì è il centro. Lì si apprezza, lì si sa, si conosce, se sei bravo, sei bravo e si sente, insomma. E lì è quella, cioè lì impari dai più grandi, cioè sono tutti lì alla fine, passano tutti da lì, e quindi per noi è stata una grossa soddisfazione. E dopodiché anche nel Giappone, dove è stato il disco è stato distribuito e dove sarà distribuito anche il secondo, abbiamo avuto degli ottimi consensi, infatti speriamo quest'anno di poter raggiungere il paese del Sollevante per poter fare dei concerti lì, ce l'auguriamo, insomma. Va benissimo, no? Perché secondo me avete le carte in regola e comunque lì c'è il pubblico più affamato poi, sì, infatti, di queste cose, perché stanno, sono veramente anche bravi loro a suonare incredibilmente. Certo. Io vorrei sentire no? un altro brano vostro che ho scelto, che si chiama FDP. Di chi è questo brano? Sì. Questo brano è mio. Quindi di Francesco Lo Magistro, che è il batterista del gruppo Berardi Jazz Connection, che è ospite qui con noi stasera. E qui mi pare che ci sono altri elementi, ci sono anche i fiati, se non vado errato. Sì, qua ci sono i fiati, qui ci sono, appunto Vincenzo Presta sax tenore e Andrea Sabatino alla tromba, se non erro. Sì, loro sicuro, altri adesso sai, siccome nel disco praticamente ci sono una marea di ospiti e alla fine magari sai, registri un brano e magari non ti ricordi che gli abbiamo aggiunto le percussioni, quindi sai, è difficile ricordarsi tutto, tutto per bene. Comunque è sicuramente un quintetto di base. E noi ce lo riascoltiamo. Allora, FDP, questo è tratto da Do It? Yes. Verissimo, sì, sì. Quindi dal nuovo vostro disco che si chiama Do It, Berardi Jazz Connection qui a Edit, a Broadcast Italia, Francesco Lo Magistro in collegamento con noi da Taranto, Puglia, la mia Puglia, la vostra Puglia, che è il batterista, FDP, Berardi Jazz Connection. Thank you. Berardi Jazz Connection. Berardi Jazz Connection from Taranto, Puglia. Questa sera ospiti a Edit, Broadcast Italia. Che groove, eh? Francesco? Che base ritmica, complimenti! Una sezione ritmica da paura. Bravissimi, bellissimo questo FDP. Dunque, allora, sarà contentissimo questo signor Berardi a cui avete dedicato il nome del vostro gruppo? Sì, tra l'altro mi sono informato, sai, per capire chi fosse. Chi era, eh? E pare che sia un caduto della Seconda Guerra Mondiale, se non sbaglio, se mi sono informato bene. Penso comunque di sì. Dunque, Francesco Lomagistro con noi, che è il batterista di questo gruppo. Chi suonava qui, se ti ricordi un po' i nomi, anche perché io ho tentato di segnarmeli prima, ma non me li ricordo tutti. Subito, Ettore è al basso? No. No, Ettore Carucci al piano, Fender. Ferruccio? Carucci. Ettore Carucci al piano. Sì. Al Fender. Come? Al Fender, sì, infatti. Sì, Fender. Poi abbiamo Aldo Vigorito al contrabbasso. Al basso, Sì. Vincenzo Presta al sax tenore. Vincenzo Presta, me lo segno. E Andrea Sabatino alla tromba. E le congas erano di Cesare Pastarella. Bellissimo questo brano che avete inciso. Quando l'avete registrato? Questo abbiamo registrato, entrambi i dischi li abbiamo registrati al Sorriso Studios, che è di Tommy Cavalieri, che è uno studio molto adatto a questo tipo di registrazioni. Infatti noi... Un bel suono, infatti. Sì, come potrei ben capire, la maggior parte delle tracce sono tutte in presa diretta, cioè suoniamo come ci facevano i dischi una volta praticamente. Bene, ma si sente che c'è un... È molto importante per noi sfruttare questa energia nell'ensemble, capisci? Cioè, esatto. Per far uscire un sound che alla fine deve essere quello vero, tra virgolette, senza nulla togliere alle produzioni, insomma, quelle fatte in altra maniera. Ecco. Sì, togliamo qualche cosa alle produzioni fatte in altra maniera, io preferisco queste. Aldo Vigorito al basso, qui era veramente un buon leader, no? Sì, bravissimo. Questo è il vostro nuovo disco che si chiama Do It, e potete guardare la pagina del Berardi Jazz Connection sul myspace.com/Berardi Jazz Connection, intanto mentre lo ascoltate con noi. E, che cosa posso chiederti? Non lo so, io ho tanta voglia di ascoltare la vostra musica. Ho letto un brano che si chiama Last Night a Cat Stopped Me. Che è successo a sto gatto? Ti racconto un aneddoto bellissimo. Praticamente questo è un altro brano di mia composizione. Sì. Gli amici mi prenderanno in giro se non lo fanno già. Una sera praticamente avevo la mutola in garage e praticamente un gatto inferocito come non... non ho mai visto in vita mia, non voleva assolutamente che io prendessi la moto e cominciava, sai, a fare, a gonfiarsi, a fare dei versi stranissimi, e io sinceramente, che come dice un mio amico, sono un cittadino e non vengo dalla campagna, mi sono un po' spaventato e quindi non sapevo come reagire, anche perché era al buio, e quindi ho detto ora che faccio, non so, perché di solito i gatti quando si avvicini scappano, lui era lì fermo e non voleva farmi passare, e alla fine è stato lì forse per più di mezz'ora a cercare. Mi piaceva la sella della tua moto, praticamente. Evidentemente sì, stava bene al caldo, e quindi ho detto perché non dedicare un pezzo a questa, a questa avventura o disavventura col gatto, e quindi ho dedicato questo brano a quella sera particolare. Bene, noi ce l'ascoltiamo, questa è Edit, Broadcast Italia, Berardi Jazz Connection è in collegamento con noi da Taranto, Francesco Lo Magistro è il signore che suona la batteria e che sta parlando con voi e con noi al telefono, e il brano che ci andiamo ad ascoltare è appunto Last Night a Cat Stopped Me, l'altra notte un gatto m'ha fermato. Sì. Sabatino, tromba. Prima al sax, Vincenzo Presta. Ettore Carucci. Thank you. Last Night a Cat Stopped Me. Francesco Lomagistro alla batteria, Aldo Vigorito al basso, Ettore Carucci al piano Fender, Vincenzo Presta al sax tenore e Andrea Sabatino alla tromba. Bellissimo anche questo, nonostante il gatto. Di vedermi il gatto. Senti, state suonando in questo periodo? Guarda, in questo periodo vabbè, noi poi ognuno di noi ha, sai, i suoi gruppi, i suoi progetti, facciamo molto freelance, quindi suoniamo in giro. Però adesso praticamente a gennaio abbiamo in programma la presentazione ufficiale del disco, che ancora non sappiamo dove la faremo. Sarà sicuramente un locale di riferimento in Italia o al centro, tipo Roma, Milano praticamente. E dopodiché partirà, penso, un tour promozionale nei club, chiunque ci vorrà ospitare, insomma. Beh, io spero in molti, perché questo è un bel gruppo, ragazzi, sì. Spero di sì. Questi suonano. Sì, poi ci divertiamo molto a suonare dal vivo, insomma, è molto divertente, è un repertorio molto divertente e stimolante. Senti, più o meno avete l'età mia o siete più giovani? Dipende dall'età tua. Io ti posso dire la mia età, io ho 35 anni. Siete più giovani, c'è molto da fare, almeno di 5, almeno di 5, no, almeno di 5, 10 anni. Vabbè, siamo lì, dai. Dunque, lo vedo. Senti, il gruppo più o meno è coevo, nel senso che siete della stessa età, più o meno amici? Sì, Ettore è un po' più grande di me, insomma la media più o meno è questa, sai, poi c'è qualcuno più piccolo, però bene o male il range è quello lì dell'età, ecco, diciamo, sì, è quello lì, dai, 35 in su, qualcosa in meno, dai. Avete una bellissima fusione insieme, insomma si sente che suonate dal vivo in sala, sì. E quindi dal vivo siete così o anche di più? Guarda, dal vivo la formazione, diciamo, quella ideale è il quintetto. Sì. Difficile, raramente si aggiunge la cantante, anche perché abbiamo praticamente impostato il live appunto dal tipico quintetto jazz, sai, quindi quello dall'estrazione proprio hard bop e giù di lì, e quindi il quintetto, diciamo, è quello che rappresenta meglio tutto il repertorio, anche del disco vecchio. Siamo col Berardi Jazz Connection in questa freddissima notte romana, notte da un grado. A Taranto che tempo fa? Ti sento raffreddato. Freddissimo. Anche qui ieri, pensa che ieri ha nevicato, cioè Taranto è quasi impossibile che nevichi. Io però ero in Calabria a suonare, grazie a Dio non ho nevicato. Poi mi dicevano che a Taranto c'era proprio neve, infatti sono tornato e ho trovato la macchina innevata totalmente. Bene. Però, se devo dirti la verità, preferisco questo clima. No, questo è Natale. Questo. Bravo, qualcuno adesso ti dirà presto ombrelli e galosce, però io preferisco questo al caldo torrido. Assolutamente. Senti, ma io ho vissuto qualche tempo lì a Taranto per motivi di militareschi, di Naia, sì, e sono stato molto bene, sono stato anche abbastanza coccolato, sì. E me ne andavo al cinema, insomma, sono riuscito a passare il car abbastanza bene a Taranto, tutto sommato sono stato molto bene, e comunque io mi sento un po' più pugliese che romano, pur essendo nato a Roma, perché sono d'origine di quelle parti lì, tra Bari da parte di madre e Foggia da parte di padre, quindi in quella zona lì, quindi sono pugliese doc. Quindi abbiamo qualcosa in comune, diciamo. Senti, che cosa possiamo raccontare ancora ai nostri amici per incuriosirli ancora ad ascoltare altri brani che abbiamo qui? Ma guarda, diciamo che la cosa che posso dire in merito a questo disco è che abbiamo usato dei parametri totalmente liberi, cioè del tipo non mi sono attenuto a dover ricoprire per forza un range di ascolto o qualsiasi legame che possa essere dettato dal mercato o dal commercio. Abbiamo suonato un disco per come siamo, per come sono, per come Ettore, per quello che ci piace suonare, tant'è vero che il disco poi alterna momenti veramente differenti. Ci sono delle isole, come le chiamo io, molto più riflessive magari di un brano che può essere quello arbo e quintetto. Infatti ci sono, diciamo, un paio di brani che sono stile trio, sai, proprio jazz, più introverso, più intimo. E quindi diciamo che è un disco che scorre abbastanza fluidamente, perché appunto è caratterizzato da questi momenti diversi. E poi ho voluto omaggiare, se così si può dire, il mio periodo di adolescenza, riarrangiando un brano dei Tears for Fears che penso in molti conosceranno, che era un brano che andava, insomma, tra maggiore in quegli anni lì. Io ero un ragazzino e ricordo questo video di J Television che mandava questo Change dei Tears for Fears. Non so se tu lo ricordi o lo conosci. Credo di sì, sentendolo, ma era esattamente il brano che avevo puntato ad ascoltare in questo momento. È un brano ho riarrangiato questo brano ed è l'unico ponte, diciamo, con la musica pop che ho voluto dare in questo album per ricordare un po' quello che era, che è stato nella mia vita, insomma, il passaggio, quello, sai, quando sei ragazzino che ascolta, ho ascoltato un po' di tutto, poi il jazz è una passione che è venuta da sé e poi, sai, non se ne può fare più o meno, come tu potrai ben capire. Oh, assolutamente sì. Ecco. Senti, Francesco Lomegistro è al telefono con noi, è il batterista del gruppo, di questo gruppo jazz che è Berardi Jazz Connection, una bella sezione ritmica, un bel gruppo veramente, chi ha ascoltato i brani prima se ne è reso conto. Questa è Edit, noi siamo a Broadcast Italia, siamo per ascoltare Change, ma prima volevo chiederti com'è la tua batteria, è molto semplice, molto complicata? C'hai no, la mia batteria pezzi? È semplicissima, io uso, in questo disco uso una vecchia e bellissima Gretsch, che è il tipico suono, diciamo, del jazz, quello vero, tra virgolette, quello dei vecchi, quello dei Grigio Jones, Max Roger, Blakey. E anche, Billy Gibbs mi pare suonasse una Gretsch. Certo, ma in quegli anni diciamo che era il sound era quello, c'erano le vecchie Gretsch che adesso sono ambitissime, oppure le Ludwig, qualche premia, però diciamo il suono Gretsch è legato al jazz in maniera quasi imprescindibile. Era legnosa la Gretsch, no? Aveva questa cassa con legno chiaro, se non ricordo male. Sì, acero. Legno e all'acero, e aveva questa particolare vernice dentro che pare che sia quello il segreto, che dia quel suono caldo che si può ascoltare nei dischi. E io, insomma, il mio suono alla fine è quello, pochi piatti e diciamo tanta energia da cercare di trasmettere attraverso i fusti, ecco. E si sente. Adesso ascoltiamo un brano leggermente differente. No, guarda, assolutamente te lo garantisco. Io sono appassionatissimo, questa sera sono molto molto molto arrapato sulla vostra musica. Mi piace molto. L'ascolto e mi muovo, la ballo, la sento. Allora, il brano che siamo per ascoltare è Change, che è un brano leggermente diverso da quelli che abbiamo ascoltato prima, da FDP per esempio. Sì. È molto più intimo, se no, non ricordo Change è appunto è l'arrangiamento della cover dei Tears for Fears. Io ho cercato di arrangiarla appunto a modo nostro, cioè di portare quel pop, il canto con l'armonia e il ritmo che, insomma, contraddistingue la nostra musica, che poi è quella che ci esce naturalmente, che viene dal nostro background, dal nostro ascolto, che può essere quello più tradizionale, ma può essere anche quello più contaminato dal funk o dal soul jazz, ecco. E quindi abbiamo coniato, tra virgolette, questa cover riarrangiata in questo modo. Perché si fosse messo in ascolto, può capire meglio. Perché si fosse messo in ascolto in questo momento, stiamo parlando insieme a Francesco Lomegistro, che è il batterista di un gruppo che si chiama Berardi Jazz Connection. Potete guardare la loro pagina su myspace.com, Berardi Jazz Connection. E il brano che invece andiamo ad ascoltare noi qui a Edit, a Broadcast Italia, si chiama Change ed è una cover dei Tears for Fears. Change, Berardi Jazz Connection. Ask you how Berardi Jazz Connection, Change. Change dei Tears for Fears in una splendida riedizione di questo gruppo che è Berardi Jazz Connection. L'ho riconosciuta, sì, me la sono ricordata, Francesco, sì, sì. La mettevo ogni tanto alla radio, anche io. Sì, era un pezzo, forse quello che sceglievo di più da, da quell'album dei Tears for Fears. Noi abbiamo l'età giusta dai, per ricordare questi magari qualcuno, qualche ragazzino adesso dirà: ma che sì, che dicono, ma di che parlano? Vabbè, andatevela a cercare, che vi devo dire. Dunque, la cantante è la stessa che cantava O Praser del Ser? No, è un'altra. Questa è Wendy Lewis, che è una cantante molto brava americana che vive in Italia da un po', e niente, ha partecipato in questo disco e sono molto felice che l'abbia partecipato, perché tra l'altro è una persona molto simpatica e ci siamo trovati benissimo sin da subito e insomma mi fa piacere ospitarla. È una cantante bianca o di colore? No, è di colore. Ecco, io ho cercato, l'ho indovinato un po' qualcosa, sì. Per questo ti chiedevo. Sì. Dunque, allora, noi siamo qui con Berardi Jazz Connection, un gruppo simpatico, oltretutto, oltre che bravissimi. Francesco Lomagistro è al telefono con noi. Io non so che cosa chiederti, Francesco, però sei stato talmente bene qui ascoltando questa musica. Io sono felicissimo. Anch'io sono felicissimo di stare al telefono con te. Oh, Ettore Carucci al Fender è strepitoso, voglio dire. Poi, se ben suonato il Fender, c'ha sempre il suo fascino. Ha voglia. Sa far uscire il meglio da quello strumento, è veramente molto bravo. Dunque, il gruppo dei Berardi Jazz Connection è formato da Aldo Vigorito al basso, Ettore Carucci al piano Fender, Vincenzo Presta al sax tenore, Andrea Sabatino alla tromba, e ogni tanto c'è qualcuno alle congas che arriva, e varie cantanti. Le due cantanti che abbiamo ascoltato si chiamano, di nuovo diccelo, Paola Vesano e Wendy Lewis. Allora, prima abbiamo ascoltato un brano con... abbiamo ancora tre brani in scaletta di questo gruppo. Uno è Play Kid, che mi incuriosiva ascoltare, e poi c'è Friendly, che è un brano molto più lento. E cosa ti piacerebbe ascoltare adesso? Ma io metterei Friendly, ok. Sì, siamo... è nato... a quattro mani, cioè è scritto sia da me che da Ettore, ha ascoltiamo, poi magari ne parliamo. Siamo completamente in sintonia, perché io punto con gli occhi il titolo di un brano di quelli che ho ascoltato prima e noi siamo perfettamente in sintonia. Friendly era proprio il brano che avevo scelto, incredibile. Vabbè. Quindi predico, c'è la sezione ritmica e la sezione fiati che è la stessa, la ritmica, e c'è in più c'è Maxionata che fa il solo sax, praticamente, sax tenore. Bellissimo, perfetto. Allora, Berardi Jazz Connection, questa è Broadcast Italia, questo programma si chiama Edit, io sono Enrico Di Troia, lui è Francesco Lomagistro che è il batterista e il brano invece è Friendly. Grazie Luciano per la tua apporto in regia. Friendly, Berardi Jazz Connection. Berardi Jazz Connection, Friendly. Mi dispiace molto per coloro che si stanno perdendo questo programma questa sera a Broadcast Italia. Se c'è qualcuno che vuole mandarci un commento, un saluto, qualsiasi cosa, c'è Skype, Broadcast Italia, e noi leggeremo i vostri messaggi. Stiamo ascoltando il Berardi Jazz Connection, il brano si chiama Friendly, questa è Edit, Broadcast Italia, Enrico Di Troia al microfono con voi, Friendly. Abbiamo anche una mail, radio@broadcastitalia.it. Negli anni 70 in Italia c'erano molti gruppi che cercavano di riacchiappare un po' questo sound. C'era un gruppo dove suonava anche Stefano Sabatini, di cui in questo momento non riesco a ricordarmi il nome, ma presto mi arriverà. Francesco Lomagistro è il batterista di questo Berardi Jazz Connection. Francesco, ti ricordi un po' quel sound, no, di alcuni gruppi in quell'epoca? Io ero uno che andava spesso a registrare, per esempio, concerti jazz dal vivo. Ah, sì? Sto sbobinando le mie vecchie registrazioni degli anni 80. L'altra sera ho ripescato il trio Cedar Walton, Billy Higgins e Dave Williams. Una serata in cui Dave Williams poi mi regalò il disco e mi chiedeva: tu fai DJ? Ok, ti do il disco. Poi ho risentito, che ne so, Herbie Hancock e Buster Williams quando venivano qui in Italia dopo il successo del film Round Midnight, e facevano anche un po' di sketch sul palcoscenico tra di loro. Voi come suonate dal vivo? Siete una band che poi ha un rapporto col pubblico, chiacchierate o mixate i brani l'uno con l'altro? Come funziona? Guarda, questo è un mio, diciamo, come posso dire, un punto a sfavore, se così posso dire. Non sono un, come posso dire, non mi piace molto parlare, mm-hmm, o, sai, non sono uno show. Parli con la musica, parli con la batteria. Sì, io forse sai, a volte dico, scherzo sul palco e dico che ho scelto la batteria perché sto dietro di tutti e mi ascolto fra i tamburi, anche se sono pochissimi quelli miei. Però alla fine è vero, perché io riesco a comunicare bene solo suonando. Sì, sicuramente il rapporto col pubblico è molto importante, però sai, c'è chi sa parlare sicuramente meglio, sa comunicare con le parole e riesce a interagire, insomma, essendo anche un pizzico showman. Io preferisco suonare e parlare meno, ecco, forse perché non lo so fare. questa è la verità. Ma tanto sapete parlare con la musica e molto bene. Senti, com'è a Taranto il pubblico? È cambiato? Ancora volano le lattine oppure stanno un po' imparando anche loro a sentire la musica un po' in pace, in silenzio? Voi suonate in teatri, in club? Come Guarda, funziona la questione? Suonare ovunque, teatri, club, pub e quant'altro. Guarda, il problema è che è solo culturale, esatto. Nel senso che alla fine mi rendo conto, sai, parlando con gli amici, colleghi, alla fine siamo noi adesso che dobbiamo gestire, cercare di educare l'ascoltatore a come si fa un concerto, perché alla fine oggi il club, il pub diventa una vera music hall, cioè alla fine sono i posti dove si fa più musica da un bel po' di anni, quindi alla fine la gente che va a ascoltare o va in un club dove c'è musica di un certo tipo, in questo caso musica jazz, deve capire che non sta andando in pizzeria, quindi deve degnare rispetto a chi sta sul palco, che alla fine, voglio dire, sta parlando, sta comunicando, cercando di creare un rapporto e un feeling con chi sta dall'altra parte, e alla fine si crea energia positiva solo se c'è interazione, perché alla fine noi non facciamo in questo caso intrattenimento, ma noi stiamo facendo, esatto, un concerto, quindi stiamo dicendo qualcosa di veramente intimo, e quindi quantomeno ci aspettiamo che ci si ascolti in silenzio. Poi guarda, una cosa pazzesca che mi è capitata quando sono stato a New York, c'è una differenza, guarda, abissale. Quello volevo chiederti, infatti. Guarda, è pazzesco perché di ogni età, di ogni estrazione sociale, di ogni stile di vita, cioè la gente comunque ascolta e non può fare a meno della musica. È una cosa pazzesca perché la gente in metro c'ha l'iPod, va a lavorare, c'ha l'iPod, corre, ascolta musica, e quindi la sera si va nei club per sfogarsi, rilassarsi ascoltando musica. Da noi purtroppo c'è una mala cultura pazzesca, eppure noi siamo il paese del bel canto, abbiamo dato fanascita al melodramma, all'opera, e purtroppo devo dire che la musica è sempre un contorno. Guarda, questo non è per fare polemica. No, ma è così, è per quello. Io volevo che tu dicessi proprio questo, perché è proprio quello che io penso. Purtroppo è così. Allora, più cresci e più non ci stai a sta cosa, e quindi preferisci suonare nei posti dove sai che la musica è rispettata e tu sei ascoltato e quant'altro. Assolutamente sì. Non vale il gioco la candela, cioè non ne vale la pena, capisci? No, c'è un chiacchiericcio anche qui a Roma, ormai è diventato così. Io vado raramente ormai ai concerti, ma c'è un parlottio infinito, non si riesce mai a entrare dentro, no? Al musicista, che comunque se ti sente che sei lì attento, sì, reagisce anche, no, diversamente. È una comunicazione. Guarda, è inevitabile, è una questione esclusivamente culturale. Io non dico che alla fine il concerto jazz, sai, dopo ogni solo è consuetudine applaudire per consentire o di sentire da un solo, appunto, che ha eseguito il musicista, però vuol dire almeno quantomeno il silenzio, quantomeno il rispetto, perché la differenza degli Stati Uniti, per esempio, che ho notato, vabbè, non si sapeva, però pure mi studia di persona, che la gente ti incita ad ogni frase. Se tu fai una frase, per esempio il sassofonista fa un solo e fa una frase più cool, no, del solito, la gente capisce in quel momento che ha voluto dire qualcosa, sai, di simpatico, scherzoso. È questione di cultura e di linguaggio che forse noi ancora non abbiamo, non lo so. Non dico tutti, grazie a Dio l'Italia sta diventando un paese pieno di festival, pieno di iniziative, perché c'è gente come noi che spinge per la cultura, per la divulgazione della buona musica e quant'altro, che comunque arricchisce i popoli. Alla fine c'è un detto, non so di chi sia, però vuoi capire che popolo è, ascolta la musica che fa. C'è stato un periodo in cui in Italia sembrava che piano piano questa cultura si riuscisse a riavere, no? C'era un rispetto, un silenzio, una concentrazione quando si andava ad ascoltare un concerto. Piano piano ho visto che purtroppo si sta di nuovo slegando questo rapporto, no? Guarda, e capisco molto che Jarrett, quando viene a suonare in Italia, ormai ci andavamo in pochi a sentire Jarrett, adesso i biglietti costano tantissimo, quindi sì, ci vanno quelli di cui magari la musica di Jarrett magari non gliene frega neanche niente, però il biglietto costa tantissimo, e lui comunque continua ad alzarsi, a continuare a dire al pubblico: ascoltate con le orecchie, non fotografate, non fate altro, state qui, cerchiamo di comunicare, sto dicendovi delle cose, insomma, se siete venuti a sentirle, sentitele fino in fondo, sì, no? Sì, poi tra l'altro lui non ha, cioè, voglio dire, non ha niente da, lui può farlo alla fine, che Jarrett. Guarda, non voglio fare polemica, però purtroppo forse anche la televisione rovina, ora non voglio dilungarmi su questo perché non siamo qui per... No, però insomma anche per dire un po' a chi sì, ai giovani che... questa è la mia e questa è quella di tanti musicisti che alla fine... la vita del musicista sicuramente è piena di soddisfazioni, ma piena di tantissimi sacrifici che vanno dallo studio, dallo strumento a tantissime altre cose. Quindi alla fine quando tu sei sul palco, cioè tu sul palco in un'ora, un quarto, devi dare il meglio di te, di tutta una vita a studiare, una vita di esperienze e quant'altro. Quindi se tu sei lì e hai il tuo momento e non sei manco ascoltato, alla fine diciamo vabbè, non è così, non può andare così. Grazie a Dio ci sono molti posti dove comunque sei rispettato, sei ascoltato, sei citato, vuol dire, altrimenti sarebbe assurdo. Però dovrebbero sempre più aumentare e pesare sulla bilancia in maniera positiva più posti quelli che appunto ti agevolano la tua esecuzione, non quelli che alla fine ti spezzano un po' le ali, ecco. Stiamo parlando con Francesco Lomagistro, il batterista del gruppo che ospita questa sera a Broadcast Italia e a Edit, che si chiama il Berardi Jazz Connection. E prima tu hai detto una cosa molto bella, che io ho vissuto di persona andando a New York. Appunto mi capitò di leggere sul giornale al volo che c'era appunto il trio Jarrett, Picot e Jeannette. Mi precipitai per tutta la Manhattan a piedi e in corsa, arrivai al teatro, al Harry Fisher Hall, e non c'erano biglietti. Tutti erano entrati, io stavo per andarmene con la coda fra le gambe. All'ultimo momento è arrivata una signora, ha detto: "Do you need a ticket?" Dico sì, $20, perfetto, ho trovato il mio posto bellissimo per vedere il concerto. E l'emozione più grande che ho provato è quella che tu stavi dicendo prima, che il pubblico era formato da una marea di etnie diverse, di gente di ogni tipo, cinesi, giapponesi, francesi, tedeschi, neri, bianchi, gialli, di tutti i colori, vestiti in modo completamente elegantissimo o diversissimo, tutti pronti lì ad ascoltare la musica con grande rispetto, con grande concentrazione e con grande piacere di godere di questa possibilità, no? Loro, ecco, hanno questo di bello, gli americani, che loro le arti, la musica, il teatro sono la prima cosa che coltivano e la coltivano fino in fondo, no? Poi investono in chi pensano che possa avere talento. Cioè, è vero che la cultura come la diciamo l'assistenza sanitaria in America costa, però se tu vali la gente investe su di te. Se tu non hai nulla e comunque vuoi intraprendere una carriera, il college investe con delle borse di studio o quant'altro, comunque hai modo di esprimerti, di dire la tua. E in America, e poi è vero alla fine che sì, è vero che è il paese delle contraddizioni, però c'è anche da dire una cosa, che per la musica comunque tu la tua chance ce l'hai, cioè non c'è un atteggiamento diciamo di nepotismo oppure comunque di non meritocrazia. Se tu vali comunque il tuo spazio ce l'hai, te lo puoi costruire, te lo puoi ricavare, che poi possa diventare un grattacielo o una cosa un po' più piccola, comunque ce l'hai. Io mi ricordo quando stavo a Perugia a sentire Umbria Jazz, mi ero portato il mio sassofono, io non suono molto bene il sassofono, lo strimpello, e mi ero messo in un posto nella piazza lì a Perugia, nascosto dietro una pubblicità a suonicchiare. Passa Dave Williams, il contrabbassista che suonava con Billy Higgins e Cedar Walt, e mi fa: vai, come per dire stai facendo una cosa, vai, continua, no? Ti incitano, come tu hai detto prima. Quando siete stati in America, chi avete incontrato, con chi avete avuto così modo di scambiarvi delle... Dico, tanta gente. Pensa che una sera eravamo, io ci sono stato comunque in quest'ultimo periodo, ci sono stato due volte, una volta a ottobre e una volta ad aprile per un piccolo tour. E la prima volta ero, non so se conosci St. Peter Church, che è una chiesa. Sì, come no? Ecco, è la chiesa del jazz, dove io ho avuto l'onore di suonarci, perché c'erano suoni tutti più grandi, credimi, guarda, un'esperienza bellissima. E praticamente quella sera c'era una festa dove c'erano tutti i più grandi musicisti. Io avevo la fortuna di stare con questa musicista americana che mi illustrava e mi mostrava tutti i musicisti, che magari, guarda, era pazzesco, magari non riuscivano a camminare perché c'erano il bastone, ma erano sul palco e suonavano, e ognuno di loro aveva da dire qualcosa. A un certo punto eravamo dietro, che c'era un rinfresco tutti insieme, sai, tutta questa gente che aveva suonato con Duke Ellington, che gente aveva suonato con Charlie Parker, con Max Roach. Grande. E tutto, mi giro, mi fa la mia amica, ma ha detto: "Guarda, ma sai chi è quel signore?" Ha fatto: "Chi?" Ha fatto: "Era Reggie Walkman, il bassista di John Coltrane. Cioè, non se mi spiego, c'era un pezzo di storia lì, capisci? Ma alla fine il jazz in America è una comunità, è uno stile di vita, sì. Hanno un ritrovo, un sindacato, una chiesa, quindi alla fine, sai, non c'è quella forma di aura che può esserci magari dalle nostre parti, sai, quel senso di distacco dal pubblico. No, il jazz è una musica popolare lì, è come la pizzica da noi, ecco, per fare un paragone, sì, tra, sì, sì. Per capirci, cioè, anche è così, mi capitò. Sì, sì, sì. E poi tra l'altro cioè, ti danno sempre la possibilità, ti stimolano, yes. Infatti guarda, se vuoi posso raccontare questa aneddoto che può essere no. interessante. Il titolo del disco io l'ho dato proprio da un'esperienza fatta a New York. Praticamente io ero a Brooklyn in un emittente televisiva per avere un'intervista, perché ero lì per fare un giro di concerti, mi hanno dato questa grande possibilità di fare un'intervista e promuovere il primo disco di Berardi Jazz Connection. In quello stesso giorno c'era lì un grandissimo batterista che è Grady Tate, che tra l'altro è un grandissimo cantante. Lui ha suonato con Jimmy Smith, Quincy Jones, con tutti i più grandi, è un grandissimo batterista. E quindi c'era lui lì e io ascoltavo affascinato le storie che raccontava della sua carriera e vari aneddoti, proprio lì, sai, in estasi ad ascoltare le sue parole. A un certo punto si parlava, come lo conobbi, mi piaceva di parlare con lui, di chiacchierare e gli raccontavo un po' i miei progetti futuri, e lui a un certo punto mi guarda negli occhi e fa: do it, cioè, fallo, cioè vai. Per te la strada, credi, fallo, non te ne farai, non fottertene di niente, cioè, fallo e vai avanti quello che. Ho detto, questo do it. Poi molta gente può pensare che sia, sai, il simbolo di uno spot, do it. No, per me quel do it ha avuto un significato e alla fine è stato. Ha congiunto un periodo ad un altro, e quale miglior modo per dare il titolo poi alla fine del disco nuovo? No, la cosa incredibile è che quando io ho letto Do It e mi hai detto Do It, lo riguardavo sul mio foglio dove ho preso gli appunti Do It e pensavo proprio a questo tipo di cose. Pensavo, non dico proprio l'aneddoto che tu mi hai raccontato, ma a qualcosa di simile. E quindi evidentemente qui tra noi stasera, anche vabbè, io sono appassionato di jazz, ormai si è capito, ma si è creato un certo feeling, no? Sono quindi... contento, perché non volevo che il Do It avesse un segnale distorto, come sai, della serie facciamo i fighi, Do It. No, per me quel Do It è veritiero, cioè ha avuto un significato ed è stato un messaggio da un grande musicista che io rispetto, come chiunque, voglio dire, appartenga a quel periodo storico del jazz, della musica comunque. Io passeggiavo per la 52esima strada con nelle cuffiette Charlie Parker per vedere che cosa si poteva vivere, no, di quella cosa, sì. Cosa riuscivo a riacchiappare. Certo. Molto poco per la verità, però era comunque un esperimento che la prima volta che ero lì volevo capire. Certo, insomma, come no? Se suonava diversamente. Noi siamo qui a Broadcast Italia, questa è Edit, il Berardi Jazz Connection. Francesco Lomagistro è l'amico batterista, ormai amico, che sta parlando con noi da Taranto in Puglia. Aldo Vigorito al basso, Ettore Carucci al piano Fender, Vincenzo Presta al sax tenore, Andrea Sabatino alla tromba e andiamo ancora ad ascoltare un po' di musica di questo Berardi Jazz Connection. Io direi, dopo quello che hai detto, Do It, Play Kid. Sì. Può andare bene? Come no? Ok, allora, Berardi Jazz Connection, il brano che andiamo ad ascoltare, peccato per chi se lo perde questa sera, è Play Kid. Thank you. Vincenzo Presta on tenor sax. E qui c'è un chitarrista, dopo sapremo chi è. Berardi, Jazz Connection, chi è Francesco il chitarrista? Parmigiani, però in questa formazione il sassofonista è Maxionata. Maxionata, che avevi sì. annunciato prima. Sì, sì. Kid, Berardi Jazz Connection, chitarra e sassofono ci ricorda un po' con nostalgia il Perigeo, no? Ah, sì, per chi li conosce, sì. Periodo italiano. Infatti era proprio un sound, dico, questo qui mi ricorda qualcosa, mi ricordo? Sì, sì, sì, sì, era il Perigeo, guarda, che era... Poi tra l'altro a me fa piacere, guarda, quando mi chiedono voi cosa vi rifate, a chi vi rifate, io sinceramente, ti dico la verità, non so rispondere perché... Abbiamo così tante influenze e tanti miti alla fine della musica che noi suoniamo quello che ci viene in mente, cioè alla fine noi abbiamo coniato tutto il background che abbiamo da ascoltatori, da appassionati, come voglio dire, prima di essere musicisti uno è appassionato. Come no? E alla fine lo riportiamo nella nostra musica, quindi se tu mi chiedi fotograficamente a chi possiamo assomigliare, io non te lo so dire. Infatti cioè, non te l'ho chiesto. Ho messo le mani davanti, si dice, dalla mia parte. No, non te l'ho chiesto proprio perché questo si vince, si sente. Dove ci sono influenze ci sono, dove ci sono ricordi o... Ecco, per esempio io ascoltando questo brano ho ripensato al Perigeo perché c'era questo sound, chitarra, sassofono che sì. loro usavano moltissimo, no? Chi era il chitarrista che prima l'abbiamo sentito poco? È Alberto Parmigiani, che tra l'altro è un chitarrista molto bravo e vive a Roma, quindi sicuramente... lo potrai sentir nominare dalle tue parti, insomma, nei club. E comunque ti faccio un annuncio ufficiale, se così si può dire. Se saremo, come spero, presto a Roma, ti prego, sei invitato ufficialmente a un nostro concerto. Ti farò sapere al più presto e a tutti gli ascoltatori di Broadcast Italia. Ne sarei molto felice. Ne sarei molto felice. Appena arrivate vi vengo a sentire senz'altro. Io ringrazio tantissimo anche i musicisti che hanno suonato con noi questa sera, che sono Aldo Vigorito al basso, Ettore Carucci al piano Fender, Vincenzo Presta al sax tenore, Andrea Sabatino alla tromba, qualcuno alle congas prima, me lo dici tu chi era? Cesare Passarella. Cesare Passarella, la cantante che abbiamo ascoltato in Praser Dessert, un brano... Paola Desano. brasiliano, e poi ancora un'altra cantante in Change, Wendy Lewis, è una trasposizione di un brano dei Tears for Fears, Berardi Jazz Connection. Io sentirei ancora un sacco di musica da voi. Francesco Lomagistro, che invece è al telefono con noi da Taranto, suonate a Taranto ultimamente? Avete qualche serata? No, con i Berardi ancora no, a gennaio sicuramente sì, però. Benissimo. E quindi qualche previsione di date? Guarda, ancora non ci sono. Ti ripeto, a gennaio sicuramente faremo la presentazione del disco ufficiale, che potrà essere a Roma o a Milano, in qualche club, diciamo, grosso. E dopodiché a seguire concerti che sono in via di organizzazione e definizione. Per il resto, adesso il disco sarà recensito, comunque presente su diverse testate giornalistiche specializzate, e no, sicuramente usciremo con un'intervista su, è un brano in compilation sulla rivista Asi Jazz e Jazz Magazine. Dopodiché di via di lì spero, insomma, su tutti, sulla maggior parte delle testate, quelle più di settore, diciamo, e anche devo dire non, cioè, se sono, adesso tu sai benissimo che molti, diciamo, molte riviste, che siano settimanali o mensile, si dedicano appunto uno spazio alla musica, e siccome noi abbiamo, devo dire, un addetto stampa molto in gamba, che è Elisabetta Castiglioni, che saluto adesso se è connessa via web, diciamo, via internet, e ci permette appunto di essere visibili su tutto ciò che riguarda la, diciamo, i mass media, che ci possono, insomma, aiutare a essere più visibili. Più visibili, ecco, questo era un disco che si chiama Do It, che sta appunto per uscire, e noi stiamo ascoltando un po' in anteprima, diciamo così, ma anche perché molti brani sono presenti anche sul vostro MySpace, myspace.com, Berardi Jazz Connection. Che altro dire? Io mi ascolterei un altro pezzo vostro. Suonate così bene, c'ho voglia di sentire musica. Io, qui è rimasto The Jody Grind, o Grind, come si dice? Jody Grind, sì, che è un brano di Horace Silver che noi abbiamo risuonato a modo nostro. Sì. Questo è sempre un ponte legato al periodo che magari ci può piacere di più, che quello anni 60, sai, della produzione, quella appunto Horace Silver, Art Blakey, eccetera, eccetera. Sì. Stavi dicendo su The Jody Grind. Stavamo parlando di Horace Silver e di Art Blakey, appunto. Sì, che praticamente abbiamo, anche nell'altro disco abbiamo messo, diciamo, uno standard che era, nel caso dell'altro disco era, no, erano due, a dire il vero, era una Mass di Kenny Dorham e Jive Samba di Nat Adderley. E sempre, sai, quel legame che noi diamo a quello che alla fine ci piace più suonare, che quel jazz, quello anni 60, sai, quello più, non posso dire, comunicativo, più, insomma, sì, no? Sì, più diretto, ecco, quello che forse ci può contraddistinguere come... Dove stai lì a sentire cosa fa il sassofonista, cosa fa il batterista, cosa fa il pianista, non aspetti altro che entrino. Sì, quello diretto, quello che è più a contatto appunto con chi, con l'ascoltatore. Noi siamo qui con il Berardi Jazz Connection, ogni tanto lo ripeto perché magari ogni tanto qualcuno si collega e non sa di cosa stiamo parlando. Questa è Edith, Enrico Di Troia al microfono con voi. Francesco Lomagistro è in collegamento telefonico da Taranto, che è il batterista di questo bellissimo gruppo, fortissimo, suonano alla grande, mi siete piaciuti tantissimo. Grazie. Io grazie. Vorrei ascoltare ancora un brano, che è questo The Jody Grind. Oppure hai qualche altra cosa da raccontarci nel frattempo? Ma guarda, aspetta, fai lavorare adesso. In questo momento mi cogli di sorpresa. No, ascoltiamo il brano, dai, poi magari diciamo qualcos'altro. Va bene, ok. The Jody Grind, Berardi Jazz Connection. We'll be right back. The Jody Grind, Berardi Jazz Connection, fortissimi ragazzi, questo siete potentissimi. È il nostro saluto felice al pubblico che potrà acquistare il nostro disco e un arrivederci al prossimo, che non so quando lo faremo, però penso presto, insomma, tra un paio d'anni, un annetto, ecco. Quindi questo è un blues finish, che finisce, chiude in festa tutto il disco. Assolutamente, io vi consiglierei di registrare anche qualche cosa dal vivo, perché secondo me siete forti anche in live. E perché no, perché no? Bene, Francesco Lomagistro alla batteria del Berardi Jazz Connection, insieme con lui hanno suonato, grazie, Aldo Vigorito al basso, grazie, Ettore Carucci al Fender, al piano Fender, Vincenzo Presta al sax tenore, Andrea Sabatino alla tromba, un bellissimo gruppo, un bellissimo groove, siete fortissimi ragazzi, è stata una grazie, bella scoperta Rico. Per me. E sono felicissimo, contentissimo di avervi avuto come ospiti qui a Edit, e credo che i nostri amici, coloro che ci stanno ascoltando sul web, vorranno concedervi un applauso se qualcuno in regia mi aiuta. Il Berardi Jazz Connection è stato con noi questa sera, un applauso a tutti voi. Grazie ragazzi, grazie. Siete stati strepitosi, avete suonato alla grande e io saluto Francesco Lomagistro, ti ringrazio per essere stato qui grazie, con noi. Grazie a te, sei stato veramente gentilissimo e soprattutto un grande catalizzatore di quello che può essere la musica che noi amiamo e che alla fine bisogna sempre di più divulgare. Grazie. Che amo anche io, ti ringrazio e vi saluto riproponendovi ancora una volta questo ultimo brano che abbiamo ascoltato, che è Jody Grind, Berardi Jazz Connection, è stato qui con noi questa sera. Grazie a Luciano alla console, Francesco Lomagistro ancora lo saluto, grazie, continuate a suonare così ragazzi, grazie mille per tutto quello che ci avete dato e grazie comunicato con la vostra musica. Enrico Di Troia vi saluta e vi dice di nuovo grazie con The Jody Grind al Berardi Jazz Connection. Mi raccomando, guardate il loro sito sul myspace.com/Berardi Jazz Connection, il nostro, e possiamo riascoltare The Jody Grind. Sentite come suona questa gente. Ok. Jody Grind, Berardi Jazz Connection, ospiti qui a Edit questa sera, o questa mattina, o questa notte, dipende dall'ora in cui ci riascolterete, domani, dopodomani e dopodomani ancora. Bellissimo questo programma, non ve lo perdete. Abbiamo ascoltato O Fraser Dessert, Friendly, Last Night I Can't Stop Me, Change, Play Kid, FDP. Tutti i brani suonati in diretta e registrati a questo bellissimo album che si chiama Do It. Quello che stiamo ascoltando invece è The Jody Grind, un omaggio a Horace Silver. Francesco Lomagistro on drums, Aldo Vigorito on bass, Ettore Carucci on piano fender, Vincenzo Presta on tenor sax, Andrea Sabatino tromba, Berardi jazz connection. Questa era Edit, con Enrico Di Troia al microfono con voi, da Broadcast Italia. Edit, Berardi, Jazz Connection, un bellissimo gruppo. Thank you very much for coming to the concert, and good night! E non potevano mancare i saluti da un nostro grande amico, Frank Zappa. Grazie ancora ragazzi per il vostro concerto. Francesco Lomagistro, che è stato con noi al telefono, lo salutiamo e lo ringraziamo. È stata una bellissima trasmissione, una bellissima chiacchierata. Bellissimi i brani che abbiamo ascoltato. Signore e signori, anche per questa volta Edit volge alla fine. Grazie a Luciano per essere stato con noi alla console. Tra poco partirà la sigla. Questi sono il pubblico del Palasport di Roma nel 1988, che salutava un concerto di Frank Zappa. Broadcast Italia ha presentato Edit. Grazie ancora, grazie a tutti per essere stati con noi, grazie al Berardi Jazz Connection. Ancora una volta da Edit, a presto. Broadcast Italia, la storia e le voci delle radio quando erano libere.